anymore and more cash. Hello, one more question now. No, no, niente, ma, niente mare. E poi non c'era bella come giornata, eh? E c'è caldo. C'è caldo. C'è proprio qualcuno in tu. La ciocca a mangiare di là. Buona, buona, era un po' lagna, era, ma comunque la volta si appulizza. Perché adesso mettono le uova, le lumache, capito? Vabbè, che finirà qualcuna grassa da offrire, eh. Magari anche mascio. Vabbè, interessante che mi sono rimasti un po' di lumacconi. Piccante, ma i lumacconi proprio, c'è lo sapore di selvati. È colpito che li metteva a sale, faceva tutta la papa, tutto gatto, per tre volte, non una volta li prendeva, li sciacquava e li metteva a sale. Vabbè. E che ci vuoi fare? Adesso vediamo un po'. Perché già dici, dove ne abbiamo venduti i lumacconi? Adesso devo vendere gli altri. Ma te ne stai vendendo? Sì, già. E cosa... cosa me ne porti? Erano. Già, non ti capisco, Ho detto, molti erano. In tutto, 24 dozzine. Fatto un bel. Sì, in due volte. Me ne sono rimaste 14, circa. 13, 14. Gianni, non stai uscendo, Ciamba baracchino, Gianni, ciamba baracchino. Luca, uscendo stai? Adesso sì. È il microfono che mi sta difettando. Ogni tanto mi fa questa cosa qua. Schiaccia la portante e non esce. Non esce, proprio non si muove. Come la modulazione, non si muove. No. Aggiugavit, infatti non uscite. C'ha la lamella questo microfono, dici, lui. Guarda, vale poco, c'ha i suoi anni. Che microfono è? È il Super Sider. Ah, si sta difettando. C'è qualche filo che tocca o non tocca, sicuramente, bisogna aprirlo e controllarlo. Beh, fa. Lo controllo, perché quando c'è un bel fuoco. Sì. È vero, è vero. Esce forte, sì. No, questo qua è un altro, questo qua è il coro. Con un microfono fatto, diciamo, dal col circuito dell'M300. Ai. Siamo la vividetta. Questo qua è bello. E c'è stato giusto, però sembrava fatto apposta. Vedo così già. Adesso guardare ce l'ho buttato con la scatola, ho recuperato. Sistemato. Beh. Solo si è sistemato. Non bisogna mai buttare nulla, perché poi al momento che ti serve la roba ce l'hai. Beh. In definitiva è così. Ma la brittella non stai passando? No, la pedigola sto passando. È vero. Sa che ci sia qualcuno. Ma però. Basta te. Hai saputo la l'ho sterilizzata? Ho saputo che la dovevi fare. Perché l'hai sterilizzata? Perché così sono più tranquillo. Per il calore, anche il cisto del tucano. A parte quello, ma anche che non si ammala di tumore. E si è fatto? No, sto antibiotico, anzi do l'antibiotico metà stasera, alle 6, sì, un quarto. Poi domani mattina metà antidolorifico, metà antibiotico, l'antidolorifico finisce lunedì, l'antibiotico martedì. Quindi è quasi finito, va, fa di 5 giorni. Sì, quindi è guarito. Siamo in rischio. È solo che poi vai, siamo che mi ingrassi. E non si lecca dove c'è la finita? Ce l'ha la centro pancia, si è unita dove si lecca. E devi mettere colare elisabettiana? No, non mi hanno detto niente. No. Ma io so che quando li operano li mettono il collare elisabettiano per non leccarsi. Io quando l'ho fatto a Titi, al gatto che c'aveva a casa, Ci ho stato tutta la notte dormendo con lui per non farla leccare. Ah vabbè, mi ha detto che si lecca non fa niente già. Ma dice che la saliva dei cani può disinfettare, dicono così, poi se è vero non lo so. Ah boh, questo non te lo so dire, comunque. Comunque, altro che se si lecca non fa niente. Comunque ci assomiglia molto a lui, dove gliel'ha fatta? Sì, alle cliniche universitarie. Meda? No, sapete il canile già. Ah, l'hanno fatto gratis? Allora? Non lo sapevo. Ah, io pensavo che si fa, ma anche ai cani lo fa. Anche? Ai cani? Cosa vuol dire ai cani? Oh, perché le cliniche universitarie lì... Oh. Non sapevo che c'era il canile. Oh, l'ospedale già. Cioè, perché le universitarie lavorano con il canile, così? Sì, se è, si paga anche, mi sa che intorno ai 2,50. E tu non hai pagato uno? No. Come mai? Perché il cane l'ho preso dal canile. Ah, capito. Che è, che è. Ma non sei più tranquillo, eh? E appunto, almeno non ha calori, non ha... se no ti si fermano i cani di fronte a casa, quando c'è il calore sentono l'odore da lontano, sentono urlare. Ce n'era uno che, una ragazza che aveva una cagna, un labrador, e quando era in calore tutti i cani si fermavano davanti al portone. E praticamente doveva fare il giro dal cortile e caricarlo in macchina e andare via così, perché sennò ti andavano appresso. Beh, portami 10 minuti, un quarto d'ora, arrivo subito che mi devo spostare la camera. C'è qualcuno sul canale 10? Avanti, avanti. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Hola. Hola, hola. Hola, hola, 1, 2, 3, prova. Hola. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Ci sente bene? Hola, hola. Andiamo, andiamo. Cazzo, cazzo. No, non è friend di gallo, è friend di cazzoffa. Chi cazzoffa? 1, 2, 3, canale 10, prova, prova radio. Prova radio, cambio. Andiamo, andiamo, cazzo. Di fame, ma ci ho mangiato un po' di lumache anche, ho fatto a pranzo. Ah, fatto bene, è fatto. Io alle 8:30 esco. No, io esco prima perché ho appuntamento per un videogioco. Video sistemato, però non dice non li legge la sim, cioè, non li legge i giochi, boh. Adesso la devo riaprire, vedo un po'. Che imbarazzurti le pigliando. Boh. Guarda, questo rapporto mamma mia, poverino, è autistico. Tu pensa che ha rotto un connettore, il connettore di ricarica, io l'ho sostituito. Ma sei a posto, carica bene. Solo che, secondo me ha rovinato anche dove inserisce i giochi. Anche se vuole attirare, non sa ne cosa se lo prende. Ma, vabbè, dai, sentiamo dopo, tu. Adesso vado a... finisco tutto qua, là. Ok, vai. Q10, c'è qualcuno in ascolto? Salve, ci sono io. Ma Tali. Avanti. Ma aspetta, un Natalino, ci sei? Ma c'è qualcuno là, fra qua, sai? Secondo te? Orecchio di porco. Come si, sta arrivando forte. In via Pascoli. Cappa, se non fai 30 qua, Come sei arrivato, Santiago 7, Radio 4, a Roberto, a Platanara. Già va bene, quando c'è Roberto? Ieri sera. Cappa, sta va bene già. Anche, vabbè, qua in via Pascoli arrivi forte. Vabbè, Roberto, così alto, che la volta l'ha parcheggiato. Papà, dove stai pompando? No, tutto originale ancora. Io pompando? No, io no. Ma io sono un po' sovralimentando. E che cosa sto sovralimentando? Roberto, se stavo sovralimentando io. No, negativo. Roberto, visto che sentivo abbastanza bene, c'era stavo facendo qualcosa in macchina. Ma cosa? E cosa me ne posso fare? Io devo se mettere un 250 in macchina, ma per me non è più in là al limite, ma... No, ma molte volte basta avere una buona antenna e risolto tutto il problema. Ma forse me la cambio l'antenna, la metto la 2001 sul tetto. Addirittura la 2001? Ci avevo già vista su internet, 30 euro stavo vendendo, ancora impacchettata. Lasciati quella che va bene. Se mo che manna. Però se già un metro e mezzo già la testa qui, un metro e mezzo, figurati. No, va bene, arrivi fortissimo, arrivi. Sentono tutti. No, questa testa non va bene, va benissimo, grazie a Dio. Capo, per avere una base magnetica è una resa molto alta a me. Ma voglia, base magnetica ce l'ho anche per i pucci, così ci assassari. Ok, voglia. Ma già va bene, non è che... Un metro e mezzo abbassa l'antenna, non esce molto alta. Cappa. Ah, sei giusta più che altro. Per un paragone, un metro e mezzo è giusta come altezza anche. Ma cosa? Avanti. Buonasera, c'è Antonio, se non sbaglio Cristian. Avanti Cristian, buonasera. Buonasera anche a lei. Santiago 7 qui a Ottava. Avanti Antonio. Cappa, io sono più piccolino. Poverino, piccolino, dai. Diciamo che il più piccolo sono io, dai. Io sono Ottava, sono piccolo. Sono come il cucino nero, diciamo, Antonio. Ma mica tanto. E io sono liscio, io sono usando un baracchino normale, classico baracchino, un'antenna, una stella, la croce, la stella, come è fatta, dunque. Semplice. Io sto usando un'antenna da 1,5 metri in macchina, base magnetica, un baracchino con 4 watt. E dove sei in questo momento, Cristian? Sono a Pascoli. Va bene, Santiago 7 sta arrivando. Stasera buono, la radio non mi piace, la radio si sente troppo buono, sono io magari, mi ha fatto che sta solo troppo sono cupa se non mi sbaglio, non lo so. Avanti Antu. No, è un po' così, vabbè, già va bene comunque. Cappa, mettiti la mia 5 metri e mezzo sulla cappotta. Adesso com'è la radio, migliore? Sempre la solita, magari la modulazione, che è come la mia, ma se volte la mia modulazione c'è da parecchi, l'ascolti schifosa, diciamo, dai. Non fa nulla, Cristian, non ti metti i problemi, fregate. E allora, Artù, stavolta cosa abbiamo? Panino o pizza? Io la pizza. Non lo so, vediamo. Io sono a dieta, mi pare tu. E io la dieta la incomincio dal lunedì, Cristian, dal lunedì. Antonio la dieta, vero Antonio? Non saranno. Ma io dal lunedì sono a dieta, Antonio. Non si sa qual è il lunedì, comunque è sempre il lunedì. Cappa. Antonio la dieta di farine più bambini. Voglia. Come siamo Cristian? Il tuo codiaca dov'è? San Camillo, o l'Oculento? Zona Bodibundi. Ah, Bodibundi, probabile che... Probabile ti conosco io, non lo so, Antonio Sotti conosce, dai. Tu come conosce? Antonio ti conosce bene, sta Vita Miracoli di te, vero Antonio? Vabbè, con Vita Miracoli no proprio, però conosco bene. Io non c'ho presenza, non lo conosco. No. Vabbè, io già conosco tutti più o meno, va. Ma io sono piccolino piccolino. Ehi, tu sei piccolo come un fucile nero, tu sei peggio di me, piccolino piccolino. Io sono piccolo, magrino. Lo so, sei piccolo piccino. Non c'è nulla da fare. Ah tu, quasi, sono soletto? Dove? Qua. C'è Cristian. Vabbè, c'è Cristian. Pensavo che c'era anche Roberto, magari Roberto oggi è già parato. Sicuramente. Cazzo, ma c'è caldo, sto crepando dal caldo oggi. Sta il caldo. C'è qualche sovramodulazione, chi è che vuole entrare? Non c'è coraggio di modulare, avanti che chi mi stava schiacciando sicuramente è più forte di me, Anto, dai. Più o meno, va. Vabbè, se vuoi entrare siamo qui, avanti Cristian. Questo è il sovramodulare la persona, non lo so, Ma sei in movimento Cristian adesso? Adesso sono parcheggiato, tra un po' adesso a muovermi. Perché ho visto Santiago il segnale che si è calato un pochino, dai. Meglio così, dai, avanti a tu. Capo, così è. Molto lavorato a tu oggi. Ma cosa, ho venuto, ove. Sono tutti disipirati, so. Da buia. Poi a Medea sta crepando un po' di gente, a Medea sta, quindi quella roba da Medea per me non vale un cacchio, non vale. E tutto qua, forse non sei Sono in aria, No, ma non è Medea, Medea affari ricchi, diciamo, perché ci vogliono anche soldi. Però per la Medea vivono di là, non è così, no. Il problema ci sono questi cagacazzi che, scusando la frase, che sono usciti adesso, che non ti fate niente la maglia. Hai visto che tutti i canti di Pakistan e cinesi vanno le bombe, ormai vengono tutti i canti, ormai è libera la situazione, poi io la dei gas, la dei, poi non lo so. Secondo me non va bene, perché non va bene. Si rompe in balla, per carità di Dio. Tu andi a Teo Storico, tutti i pakistani, tutti i canti, vai. Tutti i canti vedete di bombo, dico. Ma non so solo loro, no, c'è un casino in giro. Quando ci sei tu, devi venire notte, vadi. Chi dice di vattene, non ce la fai, cavolo. Ora. Purtroppo magari c'è qualcuno che l'acquista una certa quantità, magari farà qualche un euro in meno e riesce a vedere di più, come al solito. Allora, De Cristo, dove stai andando? A comprare la pizza stai andando? Vado giù in macchina, sono dal traffico. E guarda, Santiago 5, però la radio non la capisco bene la radio. Sei in mezzo un po' al problema, sinceramente. No, lo senti bene il tuo manto? Io lo sento bene. Adesso. No, io qua giù negativo, Santiago 5, ma la radio non riesco a capirlo, capito? No, già a me ci arriva più forte, molto più forte. E vabbè, tu sei proprio... Tu sei quasi a fianco a lui, tu. Io sono giù in fondo. Hai Tattellar, com'è? Quella con tutti i radiali attaccati, autoradiali c'ha? Esatto, autoradiali la mia, sì. Ma ne ho visto una alle punte di quella. 24 di... Alle punte? E quale sono alle punte? C'ha autoradiali, poi c'ha dove c'è la come si chiama? La serpentina, il coso, l'affarente, là. Ma chi è che stava chiamando? Avanti? Qualcuno là fuori c'era. Io metto in quella zona e... Scaffetta. Su cantando in Mari Sant'Enna. Forse ho capito quale ho visto. Allora ho visto quella di Walter, piazzata, dai. Ecco, il Walter, che è assomiglia alla mia, esatto. Quella lì. Perché hai tu dall'altra parte ci ho visto c'è una canna pesca alla zappata di fronte al Walter, proprio all'interno della proprio alla zappata, diciamo, dai. Non so, usata di Giulia, boh. Ok, dai, io vi devo lasciare. Ci sentiamo, ok? Ok, no, non è quello di Giulio, che Giulio già l'ha fatto teatro, non è la sua, è di un altro, va bene, dai. Tanto ho ben sentito, mi ha fatto piacere sentire, ciao a tutti, la signora, a domani si concilia, ciao anche Cristian, se mi sta ascoltando, ciao Cristian, a domani ci sentiamo, ciao a tutti in casa, curati per me, dai, avanti Cristian. Buon grazie a tutti e buona secca batteria, dai, saluto del signore. Ciao ciao. Ok, ciao Cristian, ciao Antonio, curati per me, ciao.